7. Ascolta e controlla. 1. Domani lui comprerà una nuova auto e partirà per un lungo viaggio. 2. Loro, dopodomani, saranno liberi e aiuteranno gli amici a tinteggiare la casa. 3. Accompagnerò il mio fratello minore al mare e resterò lì una settimana. 4. Se loro pagheranno in contanti, avranno uno sconto. 5. Quando le vacanze cominceranno, lei frequenterà un corso di tennis. 6. Durante l'estate dovremo lavorare e non potremo andare in vacanza. 7. L'anno prossimo tu scriverai la tesi di laurea e poi inizierai a lavorare. 8. Fra una settimana io spedirò una email a Maria e chiarirò tutto. 9. Tra pochi giorni sarà il mio compleanno e organizzerò una bella festa. 10. Il mese venturo lei finirà di leggere i libri, poi restituirà i libri in biblioteca.